want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buon pomeriggio a tutti voi in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buon pomeriggio da JJ Telesforo, buon pomeriggio al nostro Francesco Tromba. Ti trovo particolarmente abbronzato, dove sei stato? Sono stato giù in Calabria. Ma che fai? Ci vai ogni settimana a casa, come mai? Ogni tanto, poi soprattutto d'estate con il mare e le spiagge che abbiamo. Ma come ci vai? In macchina? Sì, purtroppo sì. Quindi il sole lo prendi strada facendo, no? Perché lì picchia sulla Salerno-Reggio Calabria, si fa fatica ancora, o no? Diciamo che è un po' migliorata la situazione rispetto agli ultimi anni. Sì, hanno installato delle piscine strada facendo dove puoi fare delle soste e abbeverarti come un montone. Sì, poi c'è la fermata obbligatoria all'autogrill dove fanno il panino con qualsiasi tipo di salume calabrese. Salume calabrese. Ti vado a presentare una nostra amica, una meravigliosa vocalist onnivora, non solo musicalmente, ma fino a poco tempo fa riusciva a mangiare di tutto. Adesso ha cambiato regime alimentare da qualche anno, è diventata vegetariana, forse vegana, con una particolare predisposizione per i cibi piccanti, ovvero ama il peperoncino come poche donne che ho incontrato nella mia vita, e conosce i peperoncini di qualsiasi tipo di provenienza, è specializzata anche in peperoncini calabresi. Vado a introdurvi l'arte e il talento della nostra bellissima Greta Panettieri, che torna al Soundcheck. Ciao Greta, buongiorno, buona domenica. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, parlami di questa tua passione per il peperoncino, prima di parlare di musica e della nuova pubblicazione che è stata messa in distribuzione per una nuova casa di musica, ovvero Greta's Bakery Music. Esatto. E questo è un bellissimo risultato anche per te. Moltissimo, sono felicissima, assolutamente. Ma tornando ai peperoncini, ecco, questo è l'argomento della puntata. Assolutamente, che è una passione nata ormai tantissimi anni fa, prima ancora di diventare vegetariana, proprio per il canto, perché un pomeriggio ero in Abruzzo ed avevo un raffreddore. Così ero disperata perché dovevo cantare, avevo questo naso un po' chiuso, e una signora abruzzese arrivò con un minestrone piccantissimo. Classica sciamana abruzzese. Esatto. E io da allora decisi di portare con me sempre dell'ottimo peperoncino rigorosamente fresco. Rigorosamente fresco, quindi non lo fai essiccare il peperoncino, no? Perché perde le sue proprietà. Sì, a meno che sia proprio indispensabile data stagione e luoghi del mondo, però... Quali sono i tuoi peperoncini preferiti e che effetto hanno sulla tua vocalità e sulla tua personalità? Allora, i miei preferiti sono sicuramente il cornetto calabrese, quello lungo e un po' riccio. Sta sorridendo il Tromba. Beh, diciamo è un peperoncino molto apprezzabile perché è molto profumato, sa proprio di peperone oltre ad essere piccante, quindi ha delle qualità notevoli, anche sulla voce. E poi spazi, perché ha dei pusher sparsi in giro per il mondo che le spediscono primizie messicane oppure thailandesi. Anche il peperoncino Thai non è niente male. Assolutamente, lì andiamo proprio sul forte, eh? Ma andiamo alla musica, cara Greta. Prima di parlare del nuovo progetto che hai dedicato a Mina, e vorrei anche capire dov'è l'originalità di questo progetto, perché insomma tributi alla nostra cantante numero uno ormai da tanti anni ce ne sono in giro, ne sono stati pubblicati. Vorrei farti ascoltare un nuovo album che viene sfornato dalla bassista, cantante, rapper, compositrice, visionaria Michelle Indegeosello. Io non so se la pronuncia è quella esatta, l'abbiamo studiata la pronuncia, ma continuo a sbagliarla. Infatti è sbagliata. E qual è? È Michelle Indegeosello. Indegeosello. Siamo sicuri? Non è che mi stai facendo fare una brutta figura. Allora ascoltiamo Michelle Indegeosello con Come It Come To Me qui al Soundcheck. Come to me, come it come to me, come to me, come it come to me. il sound della bravissima Michelle, un sound nuovo ma sempre ci stupisce con le sue produzioni, perché cambia, si sposta da un versante all'altro. Staremo a vedere se Michelle approderà prima o poi in Italia anche con questa produzione discografica intitolata Comet, Come to Me, Comet o Comet, che sarebbe la cometa, no? Non lo vedo scritto, dov'è? Eccolo qui. A Comet, yes. A Comet Come to Me, e vediamo se Michelle arriverà anche nel nostro paese. Ma andiamo a Greta Panettieri, nostra ospite piccantissima per la sua passione per il peperoncino, che ci propone un album nuovo, un tributo a Mina. Come mai un tributo a Mina, Greta? Tu che hai cantato di tutto, dalla musica brasiliana, jazz contemporaneo, ai grandi classici, R&B, soul, lì a New York dove sei stata per tanti anni, torni in Italia e fra i vari progetti, numerosi progetti, c'è anche la realizzazione di questo album dedicato a Mina. Sì, guarda, la risposta è già nella domanda, perché si tratta di grandi classici e essendo una jazzista sono andata a ripescare i grandi classici della musica italiana e ovviamente si va a finire a grandi compositori e grandi direttori d'orchestra che sono Bruno Canfora, Gianni Ferrio, e ovviamente è impossibile non imbattersi in Mina. Quindi diciamo il risultato è un disco di canzoni di Mina, ma in realtà vuole essere un disco di canzoni di quegli anni, e ovviamente comune denominatore è Mina, ma diciamo non è un caso, però non è neanche il fuoco centrale di questo album. Per tanti anni nel nostro paese la vocalità di Mina è stato un modello e molte cantanti forse non hanno ritrovato una personalità nella vocalità proprio perché si rifacevano troppo all'espressione, al modo di tenere le note, anche alla pronuncia di Mina. È difficile cimentarsi nel repertorio di Mina cercando di trovare una personalità. Sì, questo se si è persone razionali, ma quando si è persone che mangiano troppo peperoncino, allora poi tutto questo ragionamento evapora e quindi le cose invece si affrontano con estrema leggerezza e spontaneità. Allora, vediamo come è evaporato il discorso ascoltando questa versione di Se telefonando, un brano scritto, credo, in un taxi, perché questa è una storia che Maurizio Costanzo ha raccontato più volte, girando in taxi con Ennio Morricone. Morricone fischiettava questa melodia e Maurizio Costanzo scrisse il testo. Questa dovrebbe essere la storia di Se telefonando, che qui ascoltiamo nella versione recente di Greta Panettieri al soundcheck di Radio 24. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani, d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Soundcheck, il suono della musica. Greta Panettieri, ospite del Soundcheck, il ritorno della bellissima Greta qui da noi per la prova del suono di Radio 24 per presentarci un album dedicato alla musica di Mina. Ecco, non a Mina, ma alla musica di Mina. Va bene così? Perfetto. Francesco Tromba, hai qualche quesito tipicamente calabrese al peperoncino per la nostra Greta che non riguardi soltanto prodotti alimentari? Sì, sì, volevo chiederle, diciamo... molti artisti comunque italiani che vanno, si spostano, vanno in America, in Sud America, poi alla fine, cioè, finiscono per ritornare in Italia. Per quale motivo secondo te, per quale motivo tu sei tornata in Italia? Ma nel mio caso era scaduto il mio visto per gli Stati Uniti e quindi sono tornata. Per motivi burocratici. Esatto. E che stai aspettando un po' di tempo per poterci tornare? Ma sì, sai, magari alleggeriscono un po' le leggi sull'immigrazione che sono terribili da quelle parti. E poi ovviamente si trovano cose da fare, si va avanti, quindi ci si reinventa sempre nella vita, diciamo. Eh sì, diciamo che il lavoro a Greta non manca, perché proprio perché è versatile musicalmente, spazi, ti diverti a cantare di tutto con la tua voce bellissima, educata e infinita, continuando a studiare, e ti vedo con un trolley perché sei in partenza. Dove stai andando? Sono in partenza, stiamo andando nelle Marche, ad Ancona, per l'esattezza un paesino vicino ad Ancona, a presentare il disco, quindi stasera. Ma quindi questa sera, quindi finiamo la puntata e te parti? Di corsa. E che cosa farete? Quindi il repertorio presente nell'album? Esattamente, esattamente. E non, non canterai, per esempio, I Just Can't Stop Loving You, tratto dall'album fatto con i Greta's Bakery, tra l'altro una versione bellissima. Grazie mille. No, questa sera no. Ah no, ma mi sa che qualcuno te la chiederà, è un po' come Renzo Arbore, no? Che quando va a fare i concerti swing trova sempre qualcuno sotto che gli chiede: Arbore, cantaci qualche cosa di napoletano. Eh vabbè, se lo dovessimo trovare vedremo che fare. Eh beh, non ti manca. Poi i musicisti chi sono, chi ti accompagna? Gli stessi che hanno lavorato nel disco? Esattamente, manca, c'è solo uno dei tre fiati, c'è Gaetano Partipilo con noi stasera e poi c'è Giuseppe, Armando e Andrea insieme a me. Beh, diamo anche i cognomi però, Greta, perché sennò sembra che stiamo presentando una band del dopolavoro ferroviario degli anni 70. Hai ragione, Giuseppe Bassi al contrabbasso, Andrea San Martino al piano e Armando Sciomeri alla batteria. E quindi a completare l'organico poi del disco abbiamo Alfonso De Idda e Fabrizio Bosso. Ma tutti i musicisti che noi conosciamo molto bene, siamo, è veramente una famiglia estesa. È una famiglia estesa la nostra. Allora, facciamo così, ascoltiamo da Greta's Bakery, ultima pubblicazione, poi mi racconterai di questo Greta's Bakery Music, questa versione di I Just Can't Stop Loving You. Una delle poche composizioni scritte da Michael Jackson. Lui scriveva i testi, ma affidava la composizione della musica ai grandi compositori. Esattamente, invece questa canzone l'ha scritta tutta lui ed è bellissima, a me è sempre piaciuta tantissimo e quindi questo è veramente un omaggio a Michael Jackson. Love you, love you. Omaggio a Michael Jackson da parte di Greta Panettieri con i suoi Greta's Bakery per I Just Can't Stop Loving You qui al Soundcheck di Radio 24. Ancora pochi secondi per poi arrivare all'informazione di Radio 24. Senti Greta, allora parlami di Greta's Bakery Music. Yes. Sì, siamo finalmente arrivati a costituire questo inizio, diciamo, di etichetta indipendente dopo tanti anni di lavoro come Greta's Bakery, quindi negli Stati Uniti, e il sogno è sempre stato quello di iniziare un percorso un pochino più consistente e quindi ci siamo dati da Universal, Decca, eccetera eccetera, tutti i discorsi affrontati, case discografiche, finalmente veramente indipendenti ci siamo costituiti come Greta's Bakery Music. Il lavoro aumenta perché non solo bisogna curare gli aspetti artistici da musicisti, ma bisogna anche curare gli aspetti imprenditoriali. Qual è l'aspetto più complesso, quindi, a questo punto? Ma diciamo che veramente ormai ti occupi talmente tanto comunque di tutto che in realtà il lavoro diminuisce, perché almeno hai a che fare con te e te stesso e quindi o ti capisci o ti capisci. Quindi se le cose vanno bene o male la responsabilità è la tua, non te la devi prendere con nessuno. Esatto, al massimo te la prendi con te stesso, ma basta fare un po' di yoga e tutto si risolve. Allora, questo è un consiglio che possiamo dare anche ai musicisti della nuova generazione che hanno qualche difficoltà a introdursi nell'ambiente lavorativo, a trovare uno sbocco discografico: cercate di restare indipendenti per poter suonare quello che più vi piace. Assolutamente, assolutamente. Allora, visto che abbiamo fatto il tributo a Michael Jackson con Greta's Bakery, ecco qui un'altra cantante della nuova generazione, si chiama Malika Tirolian, che abbiamo scoperto con gli Snarky Puppy in questa sua improbabile versione di Thriller, brano scritto da Rod Temperton, sempre per The King of Pop, Michael Jackson. It's close to midnight. And something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you even make it. Come, Soundcheck. Il suono della musica. E New Joy, brano tratto dall'esperienza fatta insieme a Greta Panettieri, album New Joy per Columbia Records, pubblicato ormai più di un anno fa, e a seguire poi tanti concerti con una band strepitosa e tante mangiate al peperoncino con la nostra Greta Panettieri, nostra ospite al Soundcheck. Mi dispiace, guarda, perché ricordo momenti molto divertenti e molto intensi musicalmente. Assolutamente, è stata una tournée bellissima che speriamo di ripetere a un certo punto. Ma già abbiamo iniziato a lavorare, stiamo scrivendo musica nuova e Greta, da abile autrice, sta già mettendo le parole giuste sulle melodie appena scritte, fresche di giornata. Sì, bellissimo, felicità. Allora, questo era New Joy per Greta Panettieri, lo abbiamo detto, che torna discograficamente per la sua Greta's Bakery Music, quindi produzioni per Greta's Bakery che troverete su iTunes, distribuzione digitale. Vi consiglio di scaricare in maniera legale la musica, come sempre, per supportare autori, compositori e soprattutto gli artisti, e poi anche qualche disco stampato. I dischi oggi si vendono più ai concerti per un certo tipo di musica, non appartenendo al circuito super pop e quindi non essendo delle priority per le major discografiche. Gli artisti poi alla fine fanno anche i venditori di CD in loco, direttamente a casa se li portano. Esattamente, quindi abbiamo stampato un po' di dischi che ci porteremo in giro e che si potranno anche ordinare volendo. E troveranno anche una copia su CD di questo tributo alla musica di Mina? Eh sì, proprio questo stiamo stampando. Allora, presentaci Non Gioco Più, vediamo che cosa ha di nuovo questa versione di Non Gioco Più di Ferrio e Lerici, brano scritto dal maestro Gianni Ferrio per la grandissima Mina. Che cosa ha di nuovo questa versione? Ma diciamo che la versione di Mina, oltre ad avere ovviamente un grande ospite, Tu Stillman, in questa versione abbiamo cercato di essere fedeli alla canzone, quindi perso un po' quell'ammiccamento di Mina, quindi come tu dicevi prima, diciamo, ci siamo proprio discostati da quell'interpretazione e l'abbiamo resa nostra. Personale, ti sei lasciata andare vocalmente? Abbastanza, sì. E come ti sei trovata con l'italiano? Come ti trovi con l'italiano? Tu per anni hai cantato portoghese e inglese americano e sei tornata in Italia e ti cimenti con un repertorio tipicamente italiano. Come va con la lingua? Visto che poi devi muoverti, no, con i vocalizzi. Ma va abbastanza bene, devo dire, addirittura perdo quel che di accento romano, per cui no, benissimo, è bellissimo cantare in italiano. Non Gioco Più, la voce di Greta Panettieri al Soundcheck. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. Can you hear me? Wow, mi. Soundcheck, il suono della musica. È il maestro Bruno Canfora scrisse Brava per mettere in evidenza le qualità tecniche di una cantante chiamata Mina. Questa invece è la versione contemporanea proposta da Greta Panettieri, che ha preferito abbandonare il testo per lasciarsi andare a uno sketch impeccabile. Grazie, poi detto dal maestro dello sketch sono felice, ma in realtà sì, l'intento era proprio quello di dare nuova vita al brano, che è un brano proprio per Mina, quindi per poterlo reinterpretare, essendo poi un brano così veloce, tu saprai benissimo che la struttura armonica di questo brano è praticamente un rhythm changes, un anatov anche detto, e quindi è bastato togliere le parole per renderlo un vero brano bop. Poteva essere stato scritto da un qualsiasi Parker o un qualsiasi Gillespie, e quindi... Infatti, per renderlo ancora più bebop, il brano vede la partecipazione di un giovane talento alla tromba, che è Fabrizio Bosso, che ormai è un nome accreditato in tutto il mondo. Si è divertito anche lui, mi sa, Credo proprio di sì, la faccia era abbastanza contenta, soprattutto dopo aver fatto questo solo meraviglioso su questo brano. Mio caro Francesco Tromba, visto che stai piantando, anzi stanno venendo fuori i primi peperoncini thailandesi nella tua proprietà calabrese, hai un altro quesito per Greta, perché stiamo per salutarci, poi noi ci risentiamo a partire dalle 19:15 per la fase jazz del nostro soundcheck. Sì, volevo chiedere per quale motivo, diciamo, state un po' tutti scegliendo un repertorio anni 60-70, perché ad esempio anche l'ultima discografia di Chiara Civello richiama un po' queste sonorità. Allora, guarda, io credo che il disco di Chiara, a parte che è buffissima questa cosa, io e Chiara ci inseguiamo sia in giro che per il mondo che discograficamente, negli anni è successa tante volte questa cosa, ma diciamo, lei interpreta i brani dagli anni 60 ad oggi in chiave anni 60, invece io ho affrontato un repertorio anni 60 in chiave jazz, quindi in realtà non hanno poi molto a che fare le due cose. Sei soddisfatto? Sì, abbastanza, poi da un'appassionata di peperoncino, diciamo che può permettersi di tutto. Dai, organizziamo un bel summit, una cena vegana a base di peperoncino, no? Bella idea, no? Ottima idea. Allora, impegni, altre date che possiamo lanciare qui ai radioascoltatori di Radio 24? Sì, abbiamo due date in arrivo a Roma, a Eclettica e al Braschi, poi saremo il 26 a Castro in Salento e il 10 di agosto a Pietrelcina, già sotto le stelle. Seguite Greta Panettieri e la sua musica. C'è un sito di riferimento? Assolutamente, ho un gretapanettieri.com e un gretasbakerymusic.com con tutte le nostre date che poi verranno aggiornate via via, insomma. Vi lascio con Available for Wedding, un matrimonio non nel senso classico, ma un matrimonio di intenti, ecco, musicisti che si riuniscono, fanno musica per il piacere di farlo, una nostra visione gospel, brano scritto a quattro mani insieme a Greta per il progetto New Joy. Noi ci risentiamo più tardi. A tutti voi buon pomeriggio da Gegè Telesforo, Francesco Tromba e Greta Panettieri. Buon viaggio, Greta. Grazie, ciao a tutti. Check one two, mic check one two, mic check one two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gegè Telesforo. Come sempre la domenica nella seconda parte del sound check approdiamo al sound più vicino al jazz per dare soddisfazione agli appassionati del genere che continuamente ci richiedono informazioni scrivendo le loro mail al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Ben ritrovato anche a Francesco Tromba, con molte notizie, molte informazioni, molti concerti da presentare proprio per i prossimi giorni. L'abbiamo detto anche nella prima parte, una stagione di concerti è appena iniziata e ci sono molti appuntamenti da non perdere con star di ieri e di oggi che daranno soddisfazione agli appassionati di musica. Sì, partiamo subito da questa sera, troveremo a Roma l'Eutropia Festival, la città dell'altra economia, Testaccio, Chiara Civello e Nicola Conte Jazz Combo. Allora possiamo chiudere il programma e andarli a trovare, visto che abbiamo parlato tanto della produzione di Nicola Conte e anche della sua produzione per Chiara Civello, li ritroviamo insieme e verifichiamo così di persona che cosa combinano insieme. Sì, ma molto, molto volentieri, andiamo subito. Ok. Poi che cosa c'è? Poi ci sarà il Pescara Jazz Festival, parte l'11. E parto pure io per Pescara, lo sai? Sì, infatti ho inserito anche, parti insieme a Max Ionata. Sì, perché siamo insieme e stiamo girando con l'organ trio di Max Ionata, io sono guest del suo trio, un trio fantastico, con Amedeo Ariano la batteria e il bravissimo organista Alberto Gurrisi, anche lui ospite del Soundcheck qualche settimana fa. Molto simpatico. Alberto. Molto simpatico, il concerto è molto divertente, io ho anche dovuto studiare un bel po' perché la musica di Max Ionata è interessante e mai banale. Ci saranno anche John Scofield, Ray Gelato. E il giorno dopo di me, sempre lì sulla Marina, credo, del Pescara Jazz Festival. Sì, mi sa che è un festival molto bello, da godere. Diciamo. E anche questa è una manifestazione storica insieme a Umbria Jazz. E poi chi altro c'è al Pescara Jazz Festival? Ottolini e i suoi Sousaphonics, Franco D'Andrea col suo sestetto, l'omaggio a Thelonious Monk, poi ci sarà i Romi, Billy Cobham Band, Bollani ed Hamilton de Hollanda, Simona Molinari, Alger Rowe, Jan Tiersen e per chiudere Steve Hackett. E quindi ce n'è per tutti i gusti anche lì a Pescara. Invece io vorrei passare subito alla musica, perché in questo periodo si sta celebrando moltissimo il lavoro di Chet Baker, non solo come trombettista ma anche come cantante. Abbiamo la settimana scorsa presentato anche questo libro che racconta la storia, la biografia di Chet Baker, molto bello, un uomo che ha vissuto un film dietro al suo strumento, ne ha fatte e vissute di tutti i colori, e allora noi lo vogliamo celebrare in apertura, questo grandissimo musicista che io ho conosciuto sempre in quella bellissima stagione di musica in televisione che era Doc. Qui Chet Baker lo sentiamo in azione da un album del 1965 intitolato Groovin' with the Chet Baker Quintet, e infatti il quintetto è strepitoso: George Coleman al sax tenore, Kirk Lightsey al pianoforte, Herman Wright al contrabbasso, Roy Brooks alla batteria. Il brano, un classico di Tad Dameron, intitolato Bevan Bips, al soundcheck Chet Baker. Thank you. sound, il suono, la magia di Chet Baker da questo album immortale intitolato Groovin' with the Chet Baker Quintet, pubblicato allora per la Prestige Records. E Chet Baker viene celebrato anche da un bravissimo cantante chitarrista italiano, il nostro Joe Barbieri, con un album intitolato Chet Lives, ovvero Chet Baker continua a vivere. E così è così per il lavoro che fanno i musicisti nel continuare a riproporre la musica proposta dai grandi artisti del passato, ed è per questo che il jazz non morirà mai, è musica sempre viva, sempre fresca, anche se poi ritroviamo gli standard proposti con arrangiamenti e sonorità diverse. Joe Barbieri incontra il trombettista Luca Aquino e il pianista Antonio Fresa per dare vita in chiave contemporanea al repertorio di Chet Baker, e qui lo fa tra l'altro con una special guest, il brasiliano Marcio Faraco, per realizzare questa composizione di George Gershwin molto cara a Chet Baker, intitolata But Not For Me. Tu hai anche incontrato e intervistato Joe Barbieri, speriamo di avere il tempo nelle prossime settimane, visto che ci restano soltanto 3 weekend, di ospitare Joe Barbieri e farci raccontare la sua passione per Chet Baker. Che impressione ti ha fatto Joe Barbieri? In realtà non l'ho incontrato fisicamente, purtroppo, perché diciamo c'era un problema di distanza, non era a Roma lui, quindi non sono riuscito a vederlo, però ci ho parlato per telefono e mi è sembrato una persona innanzitutto molto affascinante, nel senso che non ha mai detto nulla di scontato o di banale, e tra l'altro anche una persona molto disponibile e capace anche di aprirsi e di raccontare quello che fa. Non tutti i musicisti sono bravi a farlo. Ma lui è bravo perché è una persona umile e soprattutto è un bravissimo musicista, molto preparato, è un cantante eccezionale, lo dico da cantante. Joe Barbieri, tributo di Joe Barbieri a Chet Baker, album molto bello, Chet Lives, Joe Barbieri e Marcio Faraco in But Not For Me al Soundcheck Radio 24. Poi arriva il GR di Radio 24, breve pausa e continuiamo con la grande musica. They're writing songs of love, but not for me. Unlucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray. Soundcheck, il suono della musica. Seven into the night, into the light, grooving, stepping out into the night, into the light, grooving. L'orecchio attento degli appassionati di musica del soundcheck avrà riconosciuto questa composizione scritta da Joe Jackson molti anni fa, intitolata Stepping Out, ma qui nella versione contemporary e soprattutto più jazz del vocalist Kurt Elling, brano realizzato per la produzione dell'album The Gate di qualche anno fa. È una cosa che i musicisti di jazz contemporanei stanno facendo da un po' di tempo, invece di utilizzare solo e esclusivamente brani originali o standard tirati giù dal repertorio tipico di grandi compositori come George Gershwin, Cole Porter, Rodgers e Hart, adesso rivisitano anche composizioni che arrivano da altre frontiere musicali, come nel caso di Stepping Out, scritta da Joe Jackson, che non è poi un compositore di jazz o di musical. È un'operazione che sta portando nuovi proseliti al jazz. Eh sì, è appunto un modo per cercare di avvicinare, di portare il nuovo pubblico ad ascoltare il jazz, quindi si utilizzano queste composizioni più simili, più vicine comunque al pop, più orecchiabili, anche appunto per non disturbare eccessivamente la nuova audience, che magari non è necessariamente abituata ad ascoltare il jazz, che in alcuni casi può essere anche complicato al pubblico primo ascolto, no? Infatti i musicisti di jazz perdono il pelo ma non il vizio, perché avrei notato che anche in questa versione di Stepping Out per Curt Elling ci sono sostituzioni armoniche un po' ostiche, e Curt Elling ha anche utilizzato degli intervalli che non sono proprio quelli originali scritti per la melodia di Joe Jackson, proprio per complicarsi la vita. È proprio una cosa che fa parte del DNA dei musicisti di jazz, e questo tipo di concept lo utilizzano ormai da sempre anche tre signori del jazz contemporaneo italiano. Dr. Three, dopo anni di assenza dalla discografia, tornano i tre dottori del jazz italiano, ovvero Danilo Rea, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria, con un album nuovissimo per Giando Music appena pubblicato, e fra i vari brani spicca proprio quello di apertura, che è How Deep Is Your Love. Ricordi questo brano? Sì, lo ricordo benissimo. E che cos'è? È una canzone pop. Quale canzone pop? Dai che ce la fai. Chi la faceva questa canzone pop? I fratelli? I Bee Gees, i fratelli Gibb. How Deep Is Your Love per Dr. Three qui al Soundcheck di Radio 24 per presentare il nuovo album e il ritorno dei tre dottori italiani sulla scena jazz italiana e internazionale. Soundcheck, il suono della musica. Le cose sono un po' diverse. Il pianista jazz inglese Jason Ribello, che da anni segue anche le vicende musicali di Sting, rivisita invece un classico di jazz, ma lo ha fatto nella metà degli anni 90, un classico come Summertime scritto da George Gershwin, con un piglio più funk e R&B, utilizzando anche la voce bellissima ex solista degli Incognito, Maisa Leak. Ti piace questa versione di Summertime? Bellissima. Allora, ci sono altri concerti, perché stiamo per chiudere anche questa puntata del nostro soundcheck, Francesco. Che concerti possiamo seguire? Sì, diciamo che a Madrid ci sono un paio di bei concerti, come ad esempio l'Iromi Trio questa sera. Iromi sta suonando dappertutto, devi avere un management molto forte. Il mio amico Ben Sidran diceva che per avere successo nel jazz bisogna avere preparazione, ma soprattutto un ottimo agente di viaggi. Eh sì, è fondamentale. Fondamentale. Poi ci sarà anche George Benson, sempre al campus dell'università. Questo domani però, Sì, lunedì 7. Vabbè, per Madrid un low cost e via, si va lì. Sì, anche bellissima città tra l'altro. Ci sarà anche Goran Bregovic giovedì 10. Vabbè, ma lui lo vediamo in Italia, dai, senza arrivare a Madrid. Sì, arriva anche in Italia. Però consiglio anche un concerto di flamenco magari, visto che andiamo a Madrid. Estrella Morente l'11 ai Jardines de Sabatini. Andiamo avanti. Poi è iniziato a Edimburgo il Jazz Festival dal 5 al 27 luglio. Tanti nomi a Edimburgo, non li vogliamo citare tutti perché perdiamo 10 minuti. Ok, andiamo a Parigi, dove ci sarà Christian McBride il 10 e l'11 al Duc de Lombard. Sempre bellissima programmazione in quel club a Parigi. Poi ci spostiamo a Londra, dove al Jazz Café ci sarà la Lataway il 9 e il 10 di luglio. Oh, e quello è un concerto da non perdere, la bravissima Lala Hathaway. Ma siamo ai saluti, mio caro Francesco. Vi diamo appuntamento al prossimo weekend, sempre il sabato a partire dalle 19:15 dopo il GR, e poi per ritornare la domenica col doppio appuntamento, quello pomeridiano e quello serale. Stavamo parlando dei musicisti di jazz che rivisitano la musica, devono sempre cambiare qualcosa e forse complicarsi la vita. E qui ascoltiamo il lavoro di una band strepitosa guidata dal vibrafonista Stephen Harris, che celebra anche lui la passione per George Gershwin rivisitando un brano intitolato Gone. Ecco, Stephen Harris, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come dicevo, alla prossima settimana, prossimo weekend, e quindi a tutti voi buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo e anche un po' da Francesco Tromba con questo cognome. Buona musica a tutti. Grazie Francesco.